Essere e benessere di Nicoletta Carbone. I peccati esigono calorie, la gola gliele fornisce. Cesare Marchi. Gli afrodisiaci sono il ponte tra gola e lussuria. In un mondo perfetto, qualsiasi alimento naturale, sano, fresco, di bell'aspetto, leggero e saporito, caratteristiche che si cercano in un partner, sarebbe afrodisiaco. Ma la realtà è ben più complessa. Isabella Allende. Ho una cura perfetta per una gola arrossata. Tagliarla. Alfred Hitchcock. E buongiorno da Nicoletta. Tre frasi di tre autori diversi, diverse tra loro, ma con un denominatore comune: la gola. C'è tutto un mondo dentro la gola, è un microcosmo che ci permette di parlare, respirare, deglutire alimenti, ma anche emozioni. Ma la gola è anche altro, è quel vizio che nessuno di noi fa fatica a confessare, ed è quel vizio che, come scriveva già Goldoni nella Bottega del Caffè, non finisce mai e cresce sempre quanto più l'uomo invecchia. Placche in gola, mal di gola, bruciore di gola che non passa mai, colpa delle polveri sottili o colpa di un colpo d'aria. Provo propoli, sciroppo, propoli, pasticche, provo propoli spray, ma nemmeno la potenza delle api può far nulla di nulla. Gargarozz o gola, oggi una puntata dedicata al benessere e al piacere della gola. Se volete confessarci la vostra passione, che so, per il tiramisù o qualche alimento in particolare, chiamatemi 800 24 00 24, proveremo a scrivere insieme l'elenco dei nostri peccati di gola. Se invece la vostra gola non pecca ma si lamenta, si arrossa e prude, si vela, datele un'occasione di benessere chiamandoci per avere o per dare consigli e per farla tornare a stare bene. Qua in studio con me il dottor Andrea Franzetti, primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e al Buzzi. Sì, buongiorno. Buongiorno. Gargarozz, gola, insomma, la gola veramente è tutto e di più. Sì. La e gola fa un sacco di cose. Certo, la gola, come diceva anche Hitchcock nella frase che abbiamo appena sentito, fa veramente tante cose e tante volte non ci si raccapezza, perché non si capisce proprio perché si hanno certi segni, certi sintomi, e abbiamo voglia di tagliarla. Lei... Però stiamo cercando di fare di tutto per non tagliarla più, eh? Allora, tante funzioni, respiriamo, parliamo, deglutiamo con la gola, e tutto grazie all'attivazione di tante piccole parti. Certo, perché la gola è proprio un punto che è importantissimo, anche se spesso poco considerato, perché noi consideriamo delle parti nobili tutto quello che sta sopra la gola, la testa, tutti gli organi della testa, tutto quello che sta sotto la gola, tutto il torace, gli organi del torace, il cuore, il polmone, eccetera, ma questi tubi di passaggio, diciamo, che sono decisivi, che condizionano tantissimo la nostra vita, di cui ce ne accorgiamo magari quando funzionano un pochettino di meno, quando danno dei disturbi, sono veramente, veramente fastidiosi quando non funzionano. Per questo a volte basta un banale mal di gola per rendere tutto difficile. Non deglutiamo bene, la voce si abbassa o a volte sparisce. Cari amici, io ho perso la voce, parlate voi, 800 24 00 24, buongiorno da Nicoletta, forse ho preso freddo. Sì, forse ho preso freddo, questo è un po' un colpo basso alla Laura Vanossi, uno scherzone, se la ride. Sono io con la laringite, io mi faccio un'autodiagnosi, ma è abbastanza facile, perché quello che ha di caratteristico la gola è che parla da sola, per cui tante volte produce sintomi molto chiari, sintomi anche diversi a seconda della zona in cui è colpita. Certo. Quindi, dottor Franzetti, si dice a volte basta la parola per localizzare l'origine del problema, e se i nostri amici parlano chiamandoci al nostro numero verde, lei potrebbe capire come sta la loro gola e anche con un po' di approssimazione le loro corde vocali, perché è tutto lì. Certo, pensiamo che la gola svolge tantissime funzioni, questa citata è una delle principali, che è la voce, con le sue modulazioni, con le sue inflessioni, con le sue potenze o con le sue, diciamo, sottovoce, no? Perché esprimono tantissimo di noi, e spesso noi vogliamo esprimere qualcosa ma non ce la facciamo perché queste corde vocali o questa gola in qualche modo si inceppa. Poi serve anche altre funzioni, il passaggio dell'aria, il passaggio del cibo, la deglutizione, sentire i gusti, i sapori, per cui concorre veramente al benessere. Per quel che riguarda le corde vocali, certo, diciamo che ogni modo di muovere le corde vocali ha bisogno di una certa anatomia, di una certa salute, e quindi quando questa è alterata noi non riusciamo più a muoverle come noi vogliamo. E a proposito di corde vocali, abbiamo pensato col dottor Franzetti di proporvi questa domanda, questo quizzone. Ecco, vi dico subito che al primo ascoltatore che ci invierà la risposta, no, ci dirà, facciamogli parlare all'800 24 00 24 la risposta giusta, noi faremo ricevere a casa Farmacia Verde, manuale di fitoterapia ed agricole, scritto da Pier Giorgio Chiereghino, un bel librone con delle indicazioni molto utili. Ci sono tutte le piante, sto aprendo sulla betulla, ottimo diuretico, bergamotto, si usa l'olio essenziale però solo su indicazione del medico, insomma, e tante curiosità. Dottor Franzetti, veniamo alla domanda, ma intanto invito anche i nostri ascoltatori a raccontarci i loro peccati di gola, dal tiramisù in avanti. Certo. Dottore. Allora, la domanda è insidiosa, sono due domande in una. Bisogna dire, prima di tutto, parliamo di corde vocali. Sì. Quante sono le corde vocali dentro la laringe? E perché si chiamano corde vocali? Aiutiamo dando anche tre risposte. Dai. Prima risposta. Si chiamano corde, ovviamente, perché tengono uniti due punti della laringe legandoli come una corda. Prima domanda. Prima risposta. Seconda possibilità. Si chiamano corde perché si tendono e vibrano come una corda. Terza possibilità, perché sono formate da un intreccio come se fosse uno spago, come una corda. 800 24 00 24, corde di vocali, gola, intesa come parte anatomica, e peccati di gola. Viola, sei sicura che il tuo metodo naturale farà tornare la voce a Nick? Ma stai scherzando? Le acciughe fanno miracoli per la voce! Pensa che il mio gatto ne mangia un sacco e infatti miagola come un tenore! Miau! Forse avrei dovuto prenderle anch'io, qualche un po' di acciughette. Ma voglio chiedere al dottor Marco Temporin, che è in linea con noi, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medica di Altavilla Vicentina. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, un saluto a tutti. Buongiorno dottor Temporin, lei dov'era quando io avevo mal di gola e non avevo più voce? Allora, adesso paga pegno e ci racconta che cosa possiamo prendere quando abbiamo la gola in fiamme. Sì, quando abbiamo la gola in fiamme abbiamo un aiuto che ci arriva direttamente dall'alveare, ovvero la propolis. La propolis è un rimedio utilissimo, in quanto può essere utilizzato sia per gli adulti e anche per i bambini, perché lo troviamo in varie forme, quindi anche in forma cosiddetta idrodispersibile, quindi non contiene alcol, ed è un ottimo aiuto in quanto ha un effetto disinfettante, ma anche un effetto decongestionante della gola e un effetto ovviamente anche un po' anestetico. Quindi ci aiuta anche a sopportare quel fastidioso mal di gola. Quindi quando la gola brucia va un po' di propoli, ma come posso utilizzarla? Per quanto tempo? Quante volte al giorno? Allora, diciamo che per gli adulti la miglior forma è la soluzione idroalcolica, e va presa ovviamente su consiglio poi del proprio medico, vanno prese delle gocce più volte al giorno, 2 o 3 volte al giorno diluite in acqua. Per i bambini invece, il cui gusto è un attimo non va bene per tutti. Sì, perché è cattiva, diciamo la verità. È un po' cattiva, ma adesso si trovano delle formulazioni in commercio che viene mescolata o con il miele oppure con delle soluzioni fruttate, e di conseguenza vanno prese queste gocce direttamente in bocca e i bambini lo prendono molto volentieri. L'unico problema è che la propoli è allergizzante, di conseguenza bisogna sempre valutare che non ci siano pericoli allergici per chi l'assume. Dottor Temporin, pensiamo invece a chi sa di essere, tra virgolette, debole di gola, che finora l'ha scampata e in qualche modo vuole mettere le mani avanti per evitare di avere poi la gola in fiamme. Che cosa può prendere? Allora, lei diceva prima che ha un bellissimo libro da regalare, ed sì, è veramente, io lo conosco ed è veramente bello. E in fitoterapia esiste un rimedio che si chiama, viene dal latino, Carpinus betulus, ovvero il carpino, il quale è un rimedio fitoterapico utilissimo proprio per quelle persone che soffrono di faringiti, di laringiti ricorrenti, rinofaringiti. Ecco, questo ha un effetto decongestionante e anche un effetto d'aiuto proprio per le persone che tendono ad ammalarsi spesso. Può essere utilizzato per tutto il periodo invernale, ovviamente la posologia va poi a discrezione del medico che la può consigliare, e è veramente un ottimo rimedio. Diciamo poi, se vogliamo disinfettare il nostro cavo orale, sì, in aromaterapia c'è un ottimo olio essenziale che si chiama tea tree oil, ovvero dal latino maleleuca alternifoglia, il quale ha proprio un effetto antisettico del cavo orale, quindi poche gocce sciolte in acqua con un bel gargarismo possono essere utili proprio per avere un effetto di disinfezione. Va molto bene proprio anche per tutto il cavo orale, in quanto questo olio essenziale ha anche una buona essenza, quindi lascia anche una buona essenza in bocca. Unico problemino, oli essenziali, attenzione, perché possono dare reazioni allergiche, quindi consultare sempre il proprio medico. Senta, io vorrei un consulto rapido da lei, perché almeno in Piemonte la mia nonna diceva che per il mal di gola, così sento anche il dottor Franzetti, io l'ho provato e funziona, si fa un impacchetto di ricotta. Il dottor Franzetti è qua che ride. Dottor Temporin, no, funziona però, come mai? Allora, diciamo che... Voi ridete, invece funziona. Sicuramente funziona, in quanto la ricotta ha un effetto decongestionante. Va applicata a temperatura però leggermente calda e non, sì, va messa fredda nella gola, e lasciata applicata per qualche ora ha proprio un effetto lenitivo. Diciamo di contro che è sicuramente un impiastro che a qualcuno non piace, perché poi esala un odore che non va sempre bene per tutti. Però insomma, provate anche con la ricotta, dottor Franzetti. Il primo mal di gola, provi anche lei con un po' di ricottina. Mangerò la ricotta e farò un impacchino caldo. Dottor Temporin, grazie per essere stato con noi, buonissima giornata. Un saluto a tutti, arrivederci. Grazie a lei. Sarà per tutte le funzioni che la gola svolge che è, abbiamo notato, una delle parti anatomiche più citate nei modi di dire. Allora noi li abbiamo recuperati, trasformati in una sorta di gioco, potete farlo anche voi, l'abbiamo messo poi sulla nostra pagina Facebook, e noi lo facciamo invece insieme ad un'amica di Essere Benessere, una vostra amica, anche Claudia Penoni, attrice. Ciao Claudia! Ciao Nicoletta, ciao a tutti. Allora Claudia, poi parleremo anche di un appuntamento molto importante di domani, ma tu schiarisciti la gola, mettiti le cuffie, ci ascolta il dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta, uno dei nostri esperti del magnifico Daily Lab. Dottor Aquilar, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ospiti. Buongiorno dottor Aquilar, mi fa stare bene solo a sentirla. Allora adesso invece noi sentiamo questa sorta di gioco test a cui si è volontariamente sottoposta Claudia, e poi il dottor Aquilar fa una specie di piccolo profilo. Andiamo. Preferisci prendere o essere presa per la gola? Beh, essere presa per la gola è molto più comodo, è facile. Ed insomma, se chi ti prende per la gola è bravo, è anche molto divertente e gustoso. L'ultima volta che ti sei trovata con l'acqua alla gola? Allora, l'ultima volta, ma era proprio una roba fisica, veramente. Siccome non so nuotare, lo confesso, ero al mare quest'estate, non avevo con me il salvagente, ho preso male le misure e ho anche bevuto, proprio realmente. L'acqua proprio anche dentro di me è entrata. Istruzioni per sciogliere i nodi in gola? Allora, sono un'esperta, perché piango, mi commuovo spesso durante i film, tra l'altro anche durante le pubblicità, tenere a portata di mano il fazzoletto. Quando è bene cantare a squarciagola? Fa tanto bene, a me capita spessissimo, io ho canto abitualmente quando stiro, tutte le settimane sono nella mia stanzetta tranquilla, nella stanzetta dei mettieri, e lì canto e posso anche stonare, tanto non mi sente nessuno. Quando è l'ultima volta che hai sentito il cuore in gola? Allora, noi del nord milanesi so che l'abbiamo sentito in tanti, l'ultima scossetta di terremoto 2 settimane fa, ero all'ottavo piano, abito all'ottavo piano, ho pensato, questa è brutta, meno male che se vado via in pace col mondo, la mamma l'ho rivista 2 giorni fa. Dottor Aquilar, che idea si è fatta di Claudia? Ma che si difende, nel senso che sono, come dire, i modi di dire sulla gola che possono rappresentare in qualche modo uno squarcio sulle nostre emozioni e sul modo di percepirle, di raccontarle e di volerle naturalmente comunicare, la nostra Claudia si è mossa sul neutro, sul tranquillino, l'acqua alla gola, che potrebbe essere per esempio una situazione personale più coinvolgente, invece diventa l'acqua alla gola al mare. Mm. Lo sciogliere i nodi in gola, che possono essere legati a molte cose, viene più semplicemente riportato come una ottima capacità di piangere. Il cantare a squarciagola, anziché essere descritto come un'emozione che ci spinge a cantare a squarciagola, viene portato più semplicemente come un momento di festosità e basta, e persino il cuore in gola viene riportato non ad un evento personale della vita, ma ad un evento sociale drammatico, come per esempio il terremoto. Quindi, come dire, la nostra ospite è particolarmente incappottata, che ci sta anche bene per questo momento di inverno forte, e non ci lascia scoprire quali sono le sue emozioni, o per meglio dire ci lascia capire che ci tiene molto a tenerle abbottonate con sciarpa e cappello. Dottor Aquilar, Claudia, ce l'hai fatta, tenuta abbottonata. Mamma mia, che bella analisi profonda, ci ha preso, sì, ci ha preso. Invece se voi volete sbottonarvi o tenervi abbottonati, potete provare a rispondere a questo gioco che noi mettiamo sul nostro profilo Facebook. Tra l'altro, dottor Aquilar, ci sarà penso anche a Napoli, ma lo facciamo raccontare da Claudia. Domani è una giornata molto importante. Claudia, insieme a Paolo Cevoli, è testimonial della Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco, proprio domani, 11 febbraio, dodicesima edizione, vero Claudia? Sì, esatto, ed è sempre stato un crescendo, persino l'anno scorso che c'era già crisi, anche 2 anni fa, è stato comunque un aumento di farmaci donati, perché gli italiani, è giusto ripeterlo sempre, sono un popolo generoso anche quando ci sono meno possibilità economiche, quindi chissà, forse anche quest'anno, nonostante questa crisi che ci perseguita, gli italiani saranno comunque generosi come lo sono sempre. E quindi si può andare nelle farmacie che hanno questo bollino, e soprattutto in questo momento di farmaci, a proposito mal di gola e questo freddo, per le persone, no, che non hanno magari modo di stare riparate, veramente sono una mano santa, come si dice, Claudia. Sì, ma guarda, poi è molto semplice, perché quando si va in farmacia, per chi non ha mai fatto questa donazione, il farmacista ha un elenco dei farmaci più richiesti, più necessari per le persone povere, che poi li useranno durante l'anno successivo. Quindi si compra un farmaco mirato che verrà usato, sono poi i più comuni farmaci da banco, e si può scegliere la spesa, se uno può spendere solo 1 euro, oppure c'è chi può permettersi un farmaco un po' più costoso di 6, 7, 8 euro, si può scegliere il tipo di spesa da tenere, quindi certo. È una cosa molto semplice, ecco, molto facile. Dottor Aquilar, non si sbottona, ma poi è chiara, vero? Questa Claudia Penoni. Non solo è chiara, ma sostiene una causa nobilissima, utilissima, e come sempre succede nei periodi di crisi, quelli sono i momenti nei quali la generosità diventa più importante e più significativa, soprattutto in un momento di influenze in cui tutti sono più o meno malati, quindi è un'eccellente idea. Salutatemi però raccontandomi i vostri peccati di gola. Claudia, qual è il tuo? I tortelli di zucca. Tortelli con o senza amaretti? Con, perché sono mantovana di origine, e Mantova si fa con gli amaretti, quindi con l'amaretto tanto, un po' dolcino. E dottor Aquilar, si sbottoni? Gli spaghetti a vongole, il mio peccato di gola più assoluto. Grazie, intanto raccogliamo i peccati di gola anche degli ascoltatori di Essere Benessere. Claudia, un abbraccio. Grazie di avermi ospitata, grazie di cuore, a prestissimo, mi raccomando, domani, se avete 10 minuti, passate in farmacia. Grazie a Claudia Penoni, grazie al dottor Aquilar, che potete come sempre seguire sul nostro Daily Lab. Buona giornata, e si faccia 2 spaghetti alle vongole. Senz'altro, grazie a voi e buona giornata. Buona giornata. Essere benessere. Che c'è? Gola. Gola, a vedere, come rossa, fumi? Sì, è meglio, già litigo dalla mattina alla sera con mio marito, che fuma tanto. Ecco, è questo, vuoi guarire? Sì. Non litiga più con tuo marito. Che devo fare? Compri il pacchetto di sigarette. E li sciacqui? Falli fa lui, ciao. Il professor Tucci. Ah, il professore violino, il violinista. Com'è, professore? La lirica riprende? Ah, la lirica sì, sono io che non mi riprendo. Asma, professore. Sentire? Tossisci? Alt! Tossisci? Alt! Respira forte. Alt! Non respirare. Eccola là, le lezioni le fai? Sì, un giorno sì, un giorno no. Quest'estate mare e sole, terapia solare. E per quel pinticarello in gola? Dai, da barba. La barba? Cosa c'entra la barba? Gola tra piacere e benessere, 800 24 00 24 con noi il dottor Andrea Franzetti. Abbiamo capito che la gola ha tante funzioni, a volte un mal di gola ci fa abbassare la voce, ne abbiamo parlato, ma c'è anche il desiderio di schiarirsi la gola, anche quel senso di fastidio che avvertiamo nella deglutizione. Questi sono sintomi che, dottor Franzetti, si prestano ad una doppia lettura. Si dice che il corpo parli e spesso non mente. Dottor Franzetti, faringite o ansia? Certo, questo qui è un bel problema, perché noi somatizziamo tantissimo del nostro stato di tensione, di ansia, di problematicità con la gola. Questo non vuol dire che non ci sia qualcosina nella gola che magari funge, noi la chiamiamo da noxa irritativa, cioè da... c'è qualcosa per cui noi sentiamo o il pruritino o la sensazione di corpo estraneo o il fastidietto, e quindi somatizziamo una preoccupazione su quello. Ma qualcosina c'è sempre, perché questa gola si trova proprio a un crocevia di ciò che sta sotto, per cui spesso può essere condizionata per esempio da un leggero reflusso esofageo di cui non ci rendiamo neanche conto, che ci aumenta l'acidità e ci irrita un pochino le mucose, perché il pH, cioè nella gola non c'è acidità, nella gola c'è un pH basico, mentre invece a livello esofageo dello stomaco c'è un pH acido, per cui quando questo viene alterato la gola si irrita. Esatto. E dice: cosa ci fai tu, certo, qua? E lo stesso vale per esempio invece per quel che succede sopra, per esempio il modo con cui respiriamo, il modo con cui noi trattiamo per esempio il cavo orale anche. E anche la gola ci condiziona, guarda un po', anche tanti disturbi del sonno. Assolutamente sì, perché quando si è raffreddati o si ha mal di gola si russa di più, e infatti è una scusa, no? Russi, ma no, perché sono un po' di mal di gola. Massimiliano da Taranto, buongiorno. Salve, buongiorno signora Nicoletta, buongiorno a tutti. Buongiorno. Effettivamente io mi ritrovo nel discorso che faceva il professore. Io ho delle infiammazioni croniche, non so se sono dovute anche a un reflusso esofageo o comunque... al freddo, perché mi accorgo che mi basta un minimo di temperatura fresca che subito mi si infiamma il tutto, in maniera quasi cronica l'inverno, creandomi appunto quelle sensazioni di secrezioni catarrali, magari anche da premettere che non sono né un fumatore e non vivo in una grande città dove magari ci potrebbero essere polveri sottili e quant'altro. Quindi è proprio la sua gola che è delicata. La invito a riascoltare, la puntata si può riscaricare se non magari ha preso nota sui rimedi che ha suggerito il dottor Temporin, a cui abbiamo chiesto anche di pensare a chi è un po' debole di gola, ma il dottor Franzetti potrà sicuramente aggiungere qualcosa. Certo, lei quanti anni ha, che lavoro fa? 41 anni e sono un rappresentante di commercio. Sì, ed è da tanto tempo che ha questo disturbo? Sì, tantissimo. Da anni? Forse saranno una quindicina d'anni, ecco, anche oltre. Allora, il vero problema è che probabilmente nella gola c'è qualcosa che da anni non è che è una malattia, ma magari è una situazione che è data o da un'abitudine o da un qualcosa che lo irrita e a cui lei non ha mai fatto a caso nel corso degli anni, e che pian piano ha creato una situazione non particolarmente di benessere dentro la gola. Poi ci sono alcuni aspetti, tipo non so, il passaggio di ambiente caldo-freddo, secco-umido, andare in contatto con certi allergeni, magari di cui non siamo propriamente allergici, oppure il vivere alcune situazioni che ci fa porre più attenzione, più fastidio a una situazione che si è creata. Probabilmente non si riesce a identificare la causa principale, ma bisogna cercare di ricreare un benessere nella gola. Perché la gola si può vedere, voi avete uno strumentino. Certo, con le fibre ottiche oggi noi riusciamo passate a vedere. Dal naso? Si può passare sia dal naso che dalla bocca. Seconda... La bocca mi sembra più semplice, no? È tutto lì. Dipende cosa si vuol vedere, e poi dipende anche quanto uno ha il cosiddetto riflesso del vomito, perché passando dal naso questo lo evitiamo. 800 24 00 24. Clara ci chiama dalla provincia di Bari. Buongiorno Clara, benvenuta. Buongiorno a tutti. Io ho avverto da Natale circa un fastidio nella gola, e questo fastidio non ce l'ho quando ingoio oppure quando parlo. Normalmente quando deglutisco però la saliva sento questo peso. Io per prima cosa sono andata dal medico di famiglia pensando che fosse un'irritazione, lui mi ha guardato in gola e non ha riscontrato nulla. Ha detto tutto nulla. A posto. Sì, poi mi ha tastato, diciamo, almeno dalla parte esterna, la tiroide, come meglio ha potuto, e non ha riscontrato nessun gonfiamento. Però questo fastidio nella deglutizione c'è, e io ringrazio Clara, perché molti di voi mi stanno scrivendo che proprio sentono la gola quando deglutiscono. Che cosa può diciamo essere? Tre cose. Sì. Uno, bisogna fare un'indagine per vedere che non ci sia qualcosa di organico, per cui una visita dall'otorino con la fibra ottica, primo passaggio. Secondo passaggio, oggi è possibile studiare la funzionalità della deglutizione. C'è un esame banalissimo che viene fatto in tutte le radiologie, in cui viene fatta deglutire una pappetta schifosissima. Mentre uno la deglutisce, viene fatta una radiografia e si vede come si muove l'esofago, se si muove correttamente mentre questa pappetta scende. La terza cosa, che è una cosa invece che è semplicissima da fare, invece di palpare la tiroide, che difficilmente si becca, influisce su questi disturbi, molto più sopra, quando uno deglutisce, si stringe leggermente al di sotto della mandibola, mettendo due dita e stringendo, e prova a deglutire. Se si altera in maniera importante la sensazione, migliorandola, di questo fastidio della deglutizione, molto probabilmente può essere legato a un fatto muscolo-tensivo. Mi piace. Allora, dove abbiamo quelle specie di pallini? Dove abbiamo queste specie di pallini, che sono le ghiandole sottomascellari. Va bene. Si schiaccia in questo modo qui. Carmela si sta strozzando. Non dobbiamo stringere molto. No, non troppo. Appena appena. Una pressione e si deglutisce. Se deglutendo quel fastidio che normalmente abbiamo tende a migliorare, significa che è uno stato muscolo-tensivo, e allora a quel punto non sono indicate medicine, operazioni. Bravo. Ma trattamenti, magari di tipo osteopatico, piuttosto che fisioterapico, eccetera, eccetera, piuttosto che logopedico, o degli esercizi che spesso magari servono anche alle persone anziane. Ma lei li sa gli esercizi? Adesso ce ne dice rapidissimamente, che dobbiamo andare poi ai mercati, poi voglio leggere i vostri peccati di gola. Ma due esercizi per migliorare la deglutizione che spesso aiutano magari le persone anziane sono: il primo, il far scoccare la lingua. Come quando si fa il cavallo. Sì, come quando si fa il cavallo. Farlo ripetutamente per qualche minuto o più volte durante la giornata. E il secondo, questo per gli anziani, se viene tosse quando bevono i liquidi è meglio di no, e fare i gargarismi. E questo sono una sorta di stretching. Perché per la nostra gola, che va bene. Il gargarismo è proprio uno stretching, nel senso che fa vibrare la base della lingua, l'epiglottide, delle retenoidi. Cioè è proprio un movimento che risveglia la funzione della deglutizione. Non è basta farla con anche dell'acqua. Con l'acqua. Sì, si fanno i gargarismi. Provate. Essere e benessere. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandare. Ma anche patatine, bomboloni, maionese, cioccolato, come ci scrive Fabio da Vicenza, mi ha scritto più peccati di gola. Adesso poi minestrone a colazione, panino con soppressa a pranzo, a cena invece carne ai ferri con polenta brustolà, molti ravioli ripieni, e i vostri peccati di gola sono tanti, anche i miei. Mi state scrivendo anche più semplicemente i cibi che mangiate non per soddisfare la fame, ma per placare una voglia. Ma non è tutta colpa nostra, questa nostra desiderio di mangiare anche alimenti di cui non abbiamo strettamente bisogno, bensì di una combinazione creata d'arte capace proprio di prenderci per la gola con grande soddisfazione, pensate, del nostro cervello. Lo racconta Margaret Sitzkorn, che è docente di neuropsicologia clinica all'Università di Tilburg in Olanda, in un libro molto interessante che si intitola I sette peccati capitali del cervello, Castelvecchi Editore. Alcuni alimenti sono intrinsecamente più soddisfacenti di altri. Questo cibo gradevole consiste in una determinata combinazione di ingredienti: il grasso, lo zucchero e il sale. Il grasso, soprattutto, è un ingrediente importante dei cibi gradevoli, e conferisce un aroma, un gusto e una consistenza che ci risultano piacevoli. Aggiungete la giusta quantità di sale e zucchero, né troppo né troppo poco, ed ecco pronto un cibo irresistibile, che attraverso il gusto e altre proprietà, come la consistenza, la temperatura e l'aroma, stimola nel cervello il sistema degli oppioidi, sostanze prodotte dal cervello che possono suscitare un'intensa sensazione di piacere. Il cervello conserva memoria del cibo che procura piacere e il ricordo fa sì che quando lo rivediamo desideriamo mangiarlo di nuovo. Avete capito, cari amici, come ci prendono per la gola? Intanto saluto il professor Michele Carruba, direttore del Centro Studi e Ricerche sull'Obesità dell'Università di Milano, che è in linea con noi. Buongiorno professore, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, ecco svelato il segreto dell'appeal di alcuni cibi. Naturalmente, però bisogna distinguere fra quello che è la fame e l'appetito. La fame è il bisogno, che è un segnale che viene dall'interno dell'organismo che dice che non c'è abbastanza energia e ti spinge a mangiare. L'appetito invece è qualcosa che coinvolge anche il significato edonistico del cibo e quindi il piacere. Esiste nel nostro cervello un sistema di gratificazione che, come è stato detto, funziona con gli oppioidi e con la dopamina, sono due neurotrasmettitori del sistema limbico che in qualche modo fanno sì che addirittura una scuola di pensiero addirittura pensa che, per esempio, i grassi possano essere in qualche modo qualcosa come una droga, cioè che si diventa dipendenti da quel bisogno. E poi c'è l'altro discorso, che noi siamo stati condizionati da bambini che il cibo in qualche modo ci rasserena. Quando alla fine della poppata il bambino si addormenta, sì, sono magnifici, hanno delle facciottine. Ecco, e spesso noi utilizziamo il cibo non perché abbiamo bisogno di energia, ma proprio per questo sistema di gratificazione, quindi quando siamo annoiati, quando siamo arrabbiati, certo, quando siamo depressi, spesso ci si rifugia nel cibo per ottenere una gratificazione. Questo purtroppo è sbagliato. Professore, però alcuni peccati di gola sono stati sdoganati dalla ricerca, prima fra tutti il cioccolato. Certo, il cioccolato, come in tutta l'alimentazione, noi diciamo sempre che non esistono cibi buoni e cibi cattivi in assoluto, nel senso che nell'ambito di una buona alimentazione ci possono essere anche dei cibi molto calorici, come per esempio il cioccolato, che ha delle sue proprietà perché ha delle proprietà antidepressive, sì, in qualche modo tira su il tono dell'umore. L'importante però è non eccedere, certo, anche qui il concetto della dose è fondamentale per avere una alimentazione equilibrata. Noi dobbiamo scegliere di tutto un po', ma mai eccedere. Quindi pecchiamo, ma piccoli peccati, tant'è vero che nella nostra tradizione alimentare mediterranea, sì, i dolci si mangiavano solo la domenica. Certo. Esiste in qualsiasi paese d'Italia la festa del patrono e c'era un dolce specifico per quella festa. I dolci erano un momento di festa. Se purtroppo, come succede oggi, alla fine di un pranzo al ristorante il cameriere ti chiede cosa le porto di dessert, siamo portati a mangiarne di più di quello che ci serve, e questo ci può far male. Professore, mi confessi il suo peccato di gola? Il mio peccato di gola sono gli spaghetti. Adoro gli spaghetti perché poi, fra le altre cose, gli amidi contenuti appunto negli spaghetti sono la base dell'alimentazione. Noi mangiamo pane e pasta, certo, come italiani, e questo è molto importante perché il 60% delle calorie debbono venire appunto dai carboidrati, pane e pasta. E io quindi adoro gli spaghetti e per questo, grazie a Dio, sono fortunato. È nato nel posto giusto. Professor Carruba, grazie molte per essere grazie stato con noi. Buonissima giornata. Dottor Franzetti, siamo pronti per dare la parola a Beatrice da Milano, che dalla regia mi dicono che vuole rispondere alla nostra domanda. Beatrice, buongiorno, corde vocali. Quante, come, buongiorno, dove, perché? Buongiorno. Buongiorno. Ciao. A lei. Siamo qua. Senti, io volevo rispondere che sono quattro, sono due vere e due false, si chiamano anche cliche, e dentro c'è un muscolo e formano un triangolo, in realtà poi c'è un fatto vuoto, si chiama glutine. Si chiama? Beatrice? Aia. Beatrice? Va bene, comunque. No, Beatrice, giusto, è giusto, quasi perché una tecnica. Diffidiamo delle imitazioni, sono due vere e due dette false, e quando usiamo le false parliamo un po' così, in falsetto, e quindi forziamo troppo la voce e quindi rischiamo anche di creare dei danni alla laringe se usiamo a lungo. E vibrano, la risposta... si tendono e vibrano perché contengono all'interno un muscolo detto muscolo vocale. Quindi anche se è caduta. E non abbiamo più voce, la risposta era esatta per Beatrice, farmacia verde, manuale di fitoterapia ed agricole. Dottor Franzetti, noi ci salutiamo con la voce in falsetto. Ci salutiamo. Buona giornata, grazie, noi ci sentiamo lunedì.